R, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Per contrastare il caro energia, il Comune di Gorizia ha avviato una serie di limitazioni alle accensioni delle luci pubbliche e non solo. Ancora uno schianto sulla A4, a un'auto tampona un tir in un tratto interessato da rallentamenti all'altezza di Porto Gruaro, perde la vita un manager udinese. Ennesima rissa in Borgo Stazione a Udine, un agente della polizia locale ferito mentre tentava di dividere i contendenti. Per venire incontro ad alcuni assegnatari di case ATER in difficoltà, a Pordenone disposto un piano di rateizzazioni. Un team dell'Università di Udine sta studiando come aumentare l'efficienza di un elettrodomestico energivoro, il frigorifero. La crescita economica dei territori di confine e la dignità dei lavoratori transfrontalieri al centro di un convegno a Gorizia. Le chiamavano le Alexandrine, le donne che dalla metà dell'Ottocento in poi partivano da Gorizia e dintorni alla volta di Alessandria d'Egitto. Un convegno studia la loro storia. Alle 7:19 minuti e 14 secondi di mercoledì 19 ottobre un cordiale buongiorno da Francesca Terranova e Armando Mucchino a voi con le notizie della TGR del Friuli Venezia Giulia. Come di consueto uno sguardo al tempo sulla regione, cielo da sereno poco nuvoloso, le temperature delle ore 6, Trieste 15 gradi, mare calmo con temperatura di 21 gradi, 11 gradi e mezzo a Udine, Pordenone, Gorizia 10 gradi e mezzo, Tolmezzo 12 gradi, 11 gradi e mezzo a Forni di Sopra, 8 a Piancavallo, Sappada 6 gradi e mezzo, Tarvisio 5 gradi 5 decimi. In quota sul Monte Lussari e sul Monte Zoncolan 10 gradi. Tornando sulla costa, Lignano 15 gradi e mezzo, grado 15, temperatura del mare nelle due località 21 gradi. Il cielo è sereno, poco nuvoloso, con la possibilità di foschie e qualche locale nebbia di prima mattina su bassa pianura e fascia lagunare. Dalla sera, su costa e zone orientali, entrerà borino con aria più secca nei bassi strati. In apertura ai temi dell'energia e il suo risparmio, la Giunta Comunale di Gorizia ha avviato una campagna di risparmio energetico disponendo una serie di limitazioni alle accensioni delle luci pubbliche, ma non solo, il servizio. Gorizia spegne la luce. Di fronte ai costi delle bollette, sempre più alti, il Comune è corso ai ripari e ha approvato una delibera per contenere i consumi di energia elettrica nelle strutture pubbliche. Un provvedimento severo ma necessario che si propone di risparmiare al massimo per evitare problemi di bilancio. Così, da luna di notte si spegneranno le luci delle scuole, del castello e dei giardini interni del municipio, oltre a quelle di altre strutture, come le aree esterne di palestre e degli impianti sportivi. Al mattino l'illuminazione pubblica verrà spenta in anticipo di un'ora e mezza e saranno inoltre disattivate le fontane pubbliche e la loro illuminazione. Anche il periodo natalizio sarà al buio. Le luminarie saranno installate solo in quantità limitata e soltanto in alcuni punti della città. La stretta riguarderà anche gli uffici comunali, dove non si potranno usare stufe elettriche e sarà obbligatorio spegnere tutte le luci e tutti i dispositivi elettronici quando si finisce di lavorare. E lo stesso vale anche per gli impianti termici. Nelle palestre gli impianti non potranno essere accesi oltre l'orario di utilizzo, nemmeno per garantire l'acqua calda delle docce. Meglio qualche luminaria in meno che dover negare aiuti a chi ha bisogno, spiega il sindaco Ziberna. La delibera, inoltre, fa sue anche le indicazioni del governo di limitare la temperatura nelle case dei privati e nei luoghi di lavoro. Gorizia, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. E il caro bollette non risparmia gli assegnatari delle case ATER. A Pordenone alcuni casi di particolare necessità vengono aiutati con rateizzazioni dall'azienda territoriale per l'edilizia residenziale. Nei primi sei mesi dell'anno le bollette del gas, delle utenze a riscaldamento centralizzato di ATER Pordenone hanno già raggiunto il costo totale pagato nell'intero 2021, 1.190.000 euro. Aumenti che rischiano di abbattersi in modo insostenibile sulle famiglie più fragili. Oltre la metà dei quasi 4.000 alloggi sono assegnati a persone con un ISEE sotto i 10.000 euro. Il presidente di ATER Pordenone, Giovanni Tassan Zanin. Siamo preoccupati anche noi, effettivamente, sono stati avvisati tutti quanti. Con una lettera in cui dicevamo stiamo attenti, cerchiamo di risparmiare eccetera eccetera e l'ATER farà tutto quello che è necessario, probabilmente porterà anche qualcuno che non riuscirà a pagare la bolletta eccetera, però noi di fatto cercheremo, li agevoliamo perché li portiamo questi soldi, li rateizziamo praticamente per evitare che abbiano l'impatto troppo grosso. In via Mazzini e Maniago è stato appena inaugurato un nuovo edificio di edilizia popolare in classe A e sul patrimonio esistente è in fase avanzata una grande opera di efficientamento energetico con quasi 90 milioni di progetti con bonus 110%. Ancora Tassan Zanin. Abbiamo preso in mano tutti i condomini ante 1990, abbiamo fatto i progetti per il 110%, affidati ormai una 37-38 condomini e siamo in fase di contrattualizzare altri 27-28 per un totale primi di 52-53 milioni di euro e 38 il secondo. Ci troveremo ad avere un patrimonio edilizio del tutto moderno, del tutto efficiente, però soprattutto credo che l'utenza capisca che loro andranno sicuramente a un risparmio energetico. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Restiamo in tema di caro energia, affrontato però dal punto di vista scientifico. Un team dell'Università di Udine sta studiando come aumentare l'efficienza di un elettrodomestico connesso alla corrente 24 ore su 24, il frigorifero. Un supermercato medio consuma in un giorno tanta elettricità quanto un appartamento in un intero anno. Più di metà di questo consumo è dovuto ai banchi frigoriferi, che non possono mai essere spenti. I frigoriferi meno moderni usano refrigeranti con maggiore effetto serra dell'anidride carbonica. Questa viene utilizzata solo negli impianti più moderni, i quali però, di fronte a stagioni sempre più calde, se non torride, vanno in sofferenza. Un gruppo di ricerca dell'Università di Udine, Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura, sta studiando come aumentarne l'efficienza e recuperare ogni minimo kilowatt di energia utilizzata. Gabriele Toffoletti, dottorando all'Università di Udine. La CO2 utilizzata come fluido frigorigeno va benissimo quando le temperature sono basse, quindi circa mediamente sotto i 25 gradi. Quando le temperature cominciano a essere alte, l'efficienza crolla. Un modo per migliorare l'efficienza è andare a recuperare il calore disperso per fare l'acqua calda sanitaria o il riscaldamento, oppure andare ad agire proprio sulla miscela utilizzando altri refrigeranti in maniera tale da aumentare l'efficienza globale del sistema. Vengono studiati i supermercati all in one, tutto in uno, in cui un solo impianto è capace di occuparsi di refrigerazione, aria condizionata, riscaldamento e acqua calda. Ma si lavora anche progettando impianti in grado di ghiacciare l'acqua contenuta in vasconi di notte e utilizzare lo scioglimento mattutino del ghiaccio per fare aria condizionata, così da non accendere le pompe di calore al mattino per evitare picchi energetici e sfruttare le ore notturne quando l'energia costa meno. Il progetto di ricerca è presentato nell'ambito della settimana dottorale, una 3 giorni in cui docenti e dottorandi confrontano i risultati scientifici del proprio lavoro. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. 7:26, la cronaca, nuovo incidente mortale ieri pomeriggio sull'autostrada A4 nella località di Pradipozzo, vicino a Porto Gruaro, in direzione Trieste, ancora una volta nel tratto interessato dai lavori per la terza corsia. Un'auto di grossa cilindrata ha tamponato violentemente un mezzo pesante con targa croata che trasportava tronchi di alberi. Il conducente della vettura è morto sul colpo, si chiamava Maurizio Durico, 48 anni, residente a Udine, era originario di Buttrio, sposato e padre di 2 figli. Era manager in una azienda specializzata in dispositivi medici. Il TIR e l'auto procedevano entrambi sulla corsia di marcia dove c'erano rallentamenti. L'autista del mezzo pesante, un 57enne croato, è rimasto illeso. A seguito dell'incidente, il tratto tra San Stino e Porto Gruaro è stato chiuso in direzione Trieste. La dinamica sarebbe del tutto simile a quella della strage di San Donà, in cui una decina di giorni fa sono morte 7 persone appartenenti ad una onlus. In questo caso un pulmino aveva tamponato un mezzo pesante che procedeva sulla corsia di marcia dove c'erano rallentamenti. Ennesima rissa ieri pomeriggio in Borgo Stazioni a Udine, dove una ventina di afghani e pakistani si sono affrontati probabilmente per questioni legate allo spaccio in zona. Un agente della polizia locale di Udine è rimasto ferito durante l'intervento per sedare la rissa. È accaduto in via Leopardi. L'agente è stato trasportato in pronto soccorso. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Ha subito un trauma ad una coscia. Sul posto sono intervenuti anche numerosi equipaggi di polizia e carabinieri che hanno fermato, per accertare le responsabilità dell'accaduto, 5 persone. Un sesto individuo è scappato alla vista delle forze dell'ordine. Questo è il terzo episodio simile successo in zona negli ultimi giorni. I residenti chiedono interventi decisi da parte delle forze dell'ordine. Continuano a diminuire i casi di coronavirus in regione. Ieri ne sono stati contati 1.599 contro i 1.947 registrati martedì scorso. Sono 6 le persone in terapia intensiva, 5 in meno di lunedì, e scende a 225 con un calo di 13 unità il numero di pazienti positivi negli altri reparti. Sono stati analizzati 8.898 tamponi con un tasso di positività pari al 17,97%. 11 i decessi registrati ieri dal bollettino regionale, 4 dei quali, specifica il documento pubblicato online, sono avvenuti nei mesi precedenti. Senatori e deputati ieri a Roma hanno eletto i loro capigruppo a Palazzo Madama e a Montecitorio. Al Senato Fratelli d'Italia aveva il pordenonese Luca Ciriani, alla Camera invece i Dem hanno confermato Deborah Serracchiani, ex governatrice del Friuli Venezia Giulia. La prima commissione consiliare, presieduta da Alessandro Basso di Fratelli d'Italia riunita a Trieste, ha espresso parere favorevole a maggioranza, nessun voto contrario estenuti i rappresentanti delle opposizioni, al disegno di legge relativo all'istituzione dell'imposta locale sugli immobili. I consiglieri si sono concentrati su un documento che mette mano sulla possibilità per la Regione di disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, definendone le modalità di riscossione e consentendo agli enti locali di modificare le aliquote, introducendo esenzioni, detrazioni e deduzioni. Il provvedimento è volto anche ad assicurare che la transizione dell'IMU all'imposta locale sugli immobili avvenga in un regime di neutralità finanziaria tra Stato, Regione e Comuni. Escludere l'Iran dagli imminenti campionati del mondo di calcio per rendere tangibile l'indignazione causata dai recenti assassini e dalle violazioni quotidiane dei diritti delle donne nella Repubblica Islamica. È questa la proposta che sarà lanciata dal presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin in una lettera che verrà indirizzata al Premier e al Ministro dello Sport del nuovo governo italiano. L'annuncio è arrivato ieri a Udine nel corso di un incontro che ha messo a fuoco l'importanza della mozione di solidarietà e vicinanza alle donne iraniane presentata dalla consigliera regionale Maddalena Spagnolo della Lega e sottoscritta lo scorso 3 ottobre da tutti i gruppi politici dell'Aula. A Gorizia l'Associazione Italiana per lo Sviluppo Sostenibile e il Consiglio regionale Unipol hanno organizzato un incontro di approfondimento volto a coniugare la crescita economica dei territori di confine con la dignità dei lavoratori transfrontalieri. Sono emersi elementi di criticità ancora irrisolti. Alla stazione transalpina una targa celebra i lavoratori frontalieri, protagonisti di convivenza, ma gli stati nazionali, pur proclamandosi europeisti, ancor oggi non trovano un accordo su molti aspetti della vita e del lavoro, favorendo così indirettamente la fuga verso forme irregolari e sommerse. Sono tra 15 e 18 mila le persone che ogni giorno attraversano l'ex confine per recarsi dall'abitazione al lavoro. L'80% verso l'Italia e il 20% verso la Slovenia. Katia Terpin del patronato INAS CISL per i lavoratori frontalieri. Un esempio pratico per chi dalla Slovenia si sposta a lavorare in Italia è quello di rapportarsi con il fisco sloveno fino a 5 volte nell'arco dell'anno. La prima volta nella dichiarazione in acconto IRPEF, dove deve presentare ad inizio anno la busta paga di dicembre, come sappiamo tutti è quella in cui sono presenti maggiori conguagli. quindi la meno opportuna per calcolare un imponibile presuntivo annuo. Dopodiché ripresentare un'altra busta paga con quello che il lavoratore ritiene sarà il suo reddito medio annuo. Dopodiché arriva il provvedimento in acconto imposta e l'anno successivo arriva il provvedimento presuntivo del reddito conseguito l'anno precedente, al quale il lavoratore un'altra volta deve intervenire col fisco sloveno presentando ricorso entro 15 giorni. Tutto questo è frutto della mancata definizione del lavoratore frontaliero negli accordi bilaterali tra l'Italia e Slovenia. Roberto Treu, presidente del Consiglio Sindacale Interregionale. La richiesta di ottenere un accordo italo-sloveno sul riconoscimento dei lavoratori frontalieri, come avviene tra Italia e Svizzera, per esempio, darebbe garanzie e tutele ai lavoratori di qua e di là del confine. È per questo che chiediamo anche che ci siano percorsi integrati per quanto riguarda la formazione professionale, per preparare i giovani italiani e sloveni a poter accedere a più posti di lavoro. Gorizia, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. È stato messo in sicurezza il complesso industriale ex Weissenfels di Fusine in Val Romana, nel territorio del comune di Tarvisio. Un intervento importante che coniuga la messa in sicurezza di un sito industriale storico con la sua continuità produttiva in un'area strategica della nostra montagna dove i posti di lavoro valgono il doppio. Così il vice governatore e assessore alla protezione civile Riccardi, che ieri pomeriggio è intervenuto alla consegna dei lavori. Le opere del costo complessivo di circa 4 milioni di euro, di cui 3 milioni messi a disposizione dalla Protezione Civile Regionale e 1 milione di euro stanziati dal municipio di Tarvisio, sono state avviate a seguito di un accordo sottoscritto con lo stesso comune di Tarvisio, ente proprietario del complesso industriale. Tra i lotti che compongono l'intervento nella sua totalità, ristrutturazione e collegamento di fabbricati, nuova individuazione degli uffici, consolidamento strutturale. Il gruppo svizzero Trust, Steel, leader nel commercio e nella trasformazione dell'acciaio e parte della galassia Fratelli Kozulic, ha acquisito Profilmec, uno dei principali produttori italiani di tubi in acciaio, che ha sede a Torino ma possiede un importante stabilimento a Sesto al Reghena in provincia di Pordenone. Profilmec ha 400 dipendenti e una capacità produttiva di 350.000 tonnellate annue. I suoi tubi trovano applicazione in diversi settori, dall'automotive all'industria delle biciclette e motocicli, dall'arredamento per la casa e il giardino agli articoli per la scuola materna, giocattoli, casalinghi ed elettrodomestici. Alle 7.35 torniamo alla cronaca. Nel primo pomeriggio di ieri, operazione di soccorso in quota sul Monte Mangart. Due escursionisti di nazionalità slovena avevano chiesto aiuto tramite il soccorso alpino sloveno che aveva attivato i colleghi in territorio italiano. I due si trovavano in difficoltà a quota 2.450 metri per terreno ghiacciato. La SOR si è attivata la stazione di cava del Predil del soccorso alpino, la Guardia di Finanza e il nuovo elicottero a disposizione nella base di Campo Formido con equipaggio leggero. Al campo base di Fusine Laghi era già pronto un tecnico di elisoccorso che è stato imbarcato assieme ad un altro soccorritore e portato in quota. I due sloveni si trovavano all'inizio della grande cengia esposta, sotto la quale c'è un salto di diverse centinaia di metri, dove hanno incontrato il terreno ghiacciato che avrebbe potuto farli scivolare, essendo loro senza ramponi. Si trattava di un uomo e una donna, sulla sessantina. Sono stati prelevati uno ad uno in due rotazioni dopo aver vericellato sul posto entrambi i tecnici che li hanno imbragati e portato a bordo illesi. Trovato dopo due mesi di indagini l'autore delle Z, il simbolo dell'esercito e milizia russa e anche altri riferimenti esplicitamente filorussi, sui muri e sulle auto del quartiere di San Giacomo a Trieste. Carabinieri e polizia hanno perquisito venerdì la casa di un cittadino serbo con precedenti per imbrattamento aggravato, residente in Italia da anni. I militari hanno trovato vernice spray, una bicicletta e altri indizi sulla colpevolezza dell'uomo. Agenti della questura di Udine hanno notificato al titolare di un ristorante del centro, cittadino afghano, la sospensione dell'attività per 30 giorni. Durante un controllo all'interno del locale erano stati identificati diversi avventori pregiudicati, riscontrando peraltro irregolarità in merito alla sicurezza degli ambienti di lavoro, gli estintori erano senza la revisione periodica e nelle certificazioni sulla formazione dei dipendenti. Nuovo capitolo nel contenzioso tra Spritz Time SRL, la società che gestisce il caffè Contarena, e il comune di Udine, proprietario dei locali. La Corte di Giustizia Tributaria di Udine ha respinto in un'ordinanza il ricorso con il quale la società Spritz Time aveva chiesto la sospensione dell'ingiunzione di pagamento emessa dal comune a fronte del debito di oltre 300.000 euro maturato dalla stessa società nei confronti dell'amministrazione di Palazzo d'Aronco e la rateizzazione del debito. È quanto annunciato ieri il sindaco Pietro Fontanini in una nota. La richiesta di rateizzazione, commentato il primo cittadino, significa di fatto una pur tardiva ammissione dell'esistenza del debito, già ampiamente documentato nei vari gradi di giudizio da parte della società. L'ordinanza della Corte non poteva essere negativa per il fatto che sul punto si era già espresso sempre negativamente il giudice civile. Una cartolina color seppia che ritrae due donne nel deserto a dorso di cammello, accompagnate da beduini. Sono le alexandrinche, le donne che dalla metà dell'Ottocento in poi partivano da Gorizia e dintorni alla volta di Alessandria d'Egitto. Appena al di là del confine, a Prevacina, frazione di Nova Gorizia, c'è un museo a loro dedicato. E oggi alle 14.30 al Kulturnidom di Gorizia si tiene un convegno promosso dalla storica Società Operaia di Pordenone. Tra i relatori anche docenti dell'Università di Lubiana e il sottosegretario del governo sloveno per i rapporti con le comunità slovene all'estero. Ma chi erano queste donne? Chiara Aglialoro, organizzatrice del convegno. Donne che hanno lasciato la loro casa, la loro famiglia, per migrare dalla seconda metà dell'Ottocento fino, diciamo, alla metà del Novecento ad Alessandria d'Egitto per trovare lavoro. Di solito che lavoro facevano lì? Dame di compagnia, baie da latte. Il ruolo era abbastanza legato ad un'assistenza alle famiglie e la capacità che avevano nell'acquisire la lingua, tant'è che poi di generazione in generazione, quindi le zii magari chiamavano o le nipoti o le madri chiamavano le stesse figlie a lavorare assieme a loro. Ci sarà spazio per raccontare anche qualche storia in particolare di qualcuna di loro? Sicuramente, in particolare io avevo piacere di ricordare, rispetto alla mia esperienza di ricercatrice universitaria di diversi anni fa, avevo potuto intervistare la Ilaria Markic che mi aveva raccontato con grande sentimento il suo momento di ricordo, che era un ricordo fatto di allegria legato alla sua giovane età. Era andata via 17enne, quindi era molto giovane, per incontrare luoghi nuovi e quindi esperienze nuove, ma era fatto anche di tanta tristezza, nostalgia, un senso di sradicamento. Quindi sono sempre storie con ricordi molto contrastanti, con emozioni molto contrastanti. Una donna su tre subisce violenza fisica, mentale o sessuale nel corso della propria vita lavorativa. Questo stando al report pubblicato nel 2018 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, numeri che, a guardare gli ultimi dati Istat, diventano se possibile ancora più allarmanti. Gesti inappropriati, messaggi a fondo sessuale, mobbing, abusi di potere, quando non casi di violenza fisica vera e propria, che sembrano purtroppo essere quasi all'ordine del giorno. Da qui nasce l'esigenza di un'analisi il più possibile calata nelle realtà lavorative per riuscire a prevenire questi fenomeni. E questo in sintesi il senso del progetto Buone Pratiche per l'individuazione, la prevenzione e la gestione dei fenomeni di violenza e molestia sui luoghi di lavoro, messo a punto da LegaCoop Friuli Venezia Giulia insieme con l'INAIL regionale e in collaborazione con ISFID Prisma. Sta proseguendo infatti da giugno il progetto, che ha previsto l'attivazione di un centralino competente raggiungibile al numero 0432 351 3646 o via email all'indirizzo sicurezza@fvg.legacoop.it per una prima informazione e promozione della prevenzione. Oltre una trentina fino ad ora i contatti ricevuti dalle associate confermano da Legacoop FVG, principalmente per chiedere informazioni sul progetto e sulle modalità di adesione e attuazione. Una donazione di 13.000 euro destinata a sostenere per un anno i costi di una delle 5 case dell'Associazione per i bambini chirurgici del Burlo, che ospitano gratuitamente i genitori dei bimbi provenienti anche da fuori regione, i quali affrontano interventi chirurgici a Trieste, e a garantire loro buoni spesa. Questo è l'intervento previsto dal programma con i soci Coop, che reindirizza l'1% delle vendite dei prodotti del marchio ai territori. Parliamo ora di miele. Nella zona del Carso Isontino, grazie al ciliegio canino o ciliegio di Santa Lucia, si ottiene il miele di marasca, molto raro e prelibato. Uno dei suoi pluripremiati produttori ne spiega le caratteristiche all'Università della Terza Età di Trieste in via Corti, oggi alle 16.30 in un incontro organizzato da BioEst e Legambiente. A seguire anche lezioni pratiche in apiario. Ce ne parla Tiziana Cimolino. Noi abbiamo un apicoltore triestino, che anzi diversi, ma uno in particolare che verrà a fare lezione da noi, che ha avuto tantissimi premi proprio per questo miele di marasca. Effettivamente finché non lo assaggi non ti rendi conto, però effettivamente è un qualcosa di speciale, un miele buonissimo che quando appunto lo metti in bocca ha un sapore strepitoso. Proviene appunto dalla fioritura del marasca, in realtà di queste piccole ciliegine che si trovano un po' sul Carso Isontino e Triestino. È un miele che viene fatto in quantità limitatissime e naturalmente proprio per questo diventa anche più prezioso. Ci saranno anche delle lezioni pratiche in apiario dopo la lezione, così? Il corso è formato da 4 incontri liberi gratuiti in via Corti 1/1 presso l'Università della Terza Età. Di solito noi facciamo delle visite in apiario, ma non solo, facciamo anche la visita dagli apicoltori. Questa serie di visite saranno dopo i 4 mercoledì che abbiamo già dedicato e deciso che sono i prossimi a venire. Ma per esempio a me viene in mente la prossima lezione, dove invece parleremo di mieli di tutto il mondo, che sarà ancora più, secondo me, un fatto quasi eccezionale. Siamo allo sport, al calcio. L'Udinese gioca in casa con il Monza questa sera alle 21 per la Coppa Italia. Siamo ai 16esimi di finale, gara unica, chi vince passa agli ottavi e a gennaio affronterà la Juventus. Anche la Triestina gioca in casa questa sera alle 21 per la partita di campionato in turno infrasettimanale contro il Padova. Una partita cruciale, i giuliani sono al terz'ultimo posto della classifica di Serie C con 7 punti, mentre il Padova è terzo con il doppio dei punti insieme a Lecco, Novara e Pordenone. I ramari giocano invece domani in casa contro il Trento alle 18.30. 7.45, siamo alla rassegna stampa. Sul Piccolo di Trieste il titolo principale per le proteste contro la realizzazione dell'opera dell'ovovia. I residenti impediscono le perizie per la cabinovia, questo è il titolo. La fotonotizia al centro pagina ritrae un pescatore con 3 grossi pesci in mano. Il caso della pescata di orate extra large nel Golfo, la più grande sfiora i 5 kg. In taglio basso una nuova grotta scoperta nel cuore della Val Rosandra, grazie a 2 giovani triestini, Lorenzo Slama e Alessandro Costanzo. Si sviluppa la grotta per circa 350 metri sul Monte Carso. Di spalla 2 articoli che parlano di sicurezza informatica. Il porto accelera sulla cyber security sfruttando la fisica quantistica. È un articolo firmato dal professore di fisica dell'Università di Trieste, Angelo Bassi, sulla crittografia quantistica, che spiega come si fa a bloccare gli attacchi degli hacker. Trieste è leader a livello internazionale per la comunicazione quantistica. Nei richiami di cronaca in prima pagina, l'assessora Sandra Savino frena sull'ipotesi di rendere via Imbriani isola pedonale. Si tratta di una via che collega 2 arterie cittadine, Corso Italia e via Carducci. E poi la storia della ballerina di tango Tamara Selva Bisceglia, che si è trasferita dall'Argentina a Trieste per amore. L'apertura della prima pagina del Messaggero Veneto di Udine, con tanto di foto del terribile schianto, è dedicata all'ennesimo incidente mortale sulla 4, dove, come abbiamo riferito già ieri, è morto un manager udinese. A scendere i temi del mercato del lavoro in regione, dove le aziende cercano 10.000 addetti e il 53,9% delle imprese cerca personale specializzato. Nel colonnino dedicato alla cronaca, la notizia della rissa in via Leopardi con un vigile ferito e quella del furto al negozio De Luisa di Viale Palmanova mentre il titolare stava facendo il pane. A piedi pagina un richiamo per un articolo sviluppato nelle pagine interne del giornale dedicato ai 25 anni del Teatro Giovanni da Udine. Il dorso che la Gazzettina dedica al Friuli titola a piena pagina sullo schianto di ieri pomeriggio in A4, riporta come si cerchi di reclutare una ventina di medici per il servizio domiciliare ai pazienti Covid. Nella colonna di destra due notizie di economia con la consegna dei lavori di messa in sicurezza alle Weisen, Fersa Fusine e del nuovo stabilimento a Pagian di Prato della cooperativa Edile Appennino che darà lavoro a 170 addetti. Sport a piedi pagina con il passaggio del testimone tra Enzo Kainer e il figlio Andrea nella gestione delle tappe regionali del Giro d'Italia e la Coppa Italia che vede oggi impegnata l'Udinese contro il Monza. Passiamo al piccolo edizione di Gorizia e Monfalcone. La notizia principale della cronaca goriziana è che il comune risparmia sulle bollette, luci esterne spente in tutte le scuole, al teatro, in castello. A Monfalcone più controlli sul territorio e lotta al disagio giovanile. Tra le misure pensate per migliorare la sicurezza anche ispezioni nei locali per evitare l'abuso di alcol e iniziative rivolte ai ragazzi di medie e superiori. E infine mancano 2 settimane alla partenza delle lezioni di avvicinamento a uno dei più affascinanti mestieri della nautica. Sono 15 gli iscritti italiani e croati al corso per maestri d'ascia. I partecipanti impareranno a restaurare barche in legno con tecnologie 4.0. Gli insegnanti sono Odilo Simonit, fondatore del cantiere dei maestri d'ascia di Monfalcone, assieme a Paolo Scabar e Federico Lenardon, unico allievo ed erede del celebre maestro di progettazione di scafi Carlo Sciarelli, scomparso nel 2006. Rotta balcanica, controlli saltati. Il titolo a piena pagina del dorso che il Gazzettino dedica a Pordenone. Nel sommario si legge la denuncia alla regione, pattuglie miste italo-sloveno solo da settembre, quando ormai il flusso era già calato. Ancora sul caso una bomber e la richiesta di 2 vittime di riaprire il caso. Per l'avvocato Paniz, che difendeva l'ingegner Zonnitta, è inutile la riapertura ed è inutile denuncia come il suo assistito a 19 anni del caso non abbia ricevuto ancora neppure un euro di risarcimento. Cronaca giudiziaria nelle colonne di sinistra con condanne e patteggiamenti ieri davanti al GUP per spaccio di cocaina. Da Sacile poi la notizia che il sindaco spagnolo si ricandida e in affitto alla sanità e ricorso più privati contro le lunghe liste d'attesa per le mammografie. A piedi pagina calcio di Serie C con il Pordenone alle prese con molti infortuni e una rosa corta. Inizia oggi a Improsita Udine con stand di cibo e vini friulani fino a lunedì prossimo. In calendario più di 120 appuntamenti, fra cui cene che vedono protagonisti grandi chef, ma anche degustazioni, incontri, laboratori e masterclass. Grande l'attenzione ai vini bianchi provenienti da tutto il mondo, non solo etichette del Friuli Venezia Giulia e del resto d'Italia, ma anche Europa, Asia e Sud America. Questa sera si comincia con le cene insieme ai cuochi stellati, come ci racconta Claudio Tognoni, organizzatore dell'evento. Sono 72 chef da tutto il mondo, in più di 45 cene e altri 20 tra degustazioni e laboratori che si terranno sabato e la domenica. Le cene invece da oggi a domenica. Oggi cominciamo con 3 cene, con un'anteprima. Al ristorante degli amici abbiamo Emanuele Scarello, quindi Florenza Giulia, abbinato a Jeffrey Vella, quindi Rovigno, Croazia, Matteo Mettuglio, Trieste, e poi altri 2 chef sono Lorenzo Lai e Felipe Mattiazza, sempre Rovigno e Porto Rosa, quindi una cena della nostra regione che ospita anche la Croazia. Poi abbiamo alle Fucine Nico Romito con Diego Rossi e al ristorante Vitello d'Oro Alex Atala e Yoshiro Narizawa. Brasile e Giappone e una cena italiana con 2 grandi chef, con 3 stelle Michelin e Diego Rossi della trattoria Trippa, quindi un abbinamento molto anomalo ma anche straordinario. A livello di prenotazioni sa dirci qualcosa? Le cene sono moltissime prenotazioni, si trova ancora qualche posto in qualche cena. Bisogna anche puntare non solo ai nomi più, così, più conosciuti, più popolari, ma ci sono cene straordinarie. Bisogna anche avere la curiosità di andare a cercare, diciamo, delle cose un po' diverse. Per il ciclo Noi e la storia, Elisabetta d'Austria e il suo antiruolo di imperatrice alle 18 nell'auditorium comunale di Ronchi dei Legionari in via Caudemezzo con Marina Bressan in collaborazione con il Centro Studi Turismo e Cultura di Gorizia e l'associazione I Ferrai della Rosta di Sagrado. Il Novecento di Nora Baldi inaugura la mostra dedicata a questa straordinaria donna triestina nata nel 1912, collezionista cresciuta nei salotti letterali. In mostra i cimeli con conservati dalla famiglia Baldi, lettere, documenti, fotografie e libri che testimoniano la rete di relazioni umane ed intellettuali e il suo ritratto da cavallerizza, opera di Carlo Sbisà. Alla Biblioteca Statale Stelio Crise, in Largo Papa Giovanni XXIII a Trieste, alle ore 16. Dov'è il confine tra possessioni demoniache e malattie della mente? Monsignor Marino Trevisinani e il professor Maurizio De Vanna cercheranno di dare una risposta alle 18 nel seminario vescovile di Trieste in via Basenghi. Incontro aperto a tutti. Il rigore professionale e l'amore per la scienza di Rosalind Franklin nel romanzo Ho fotografato il DNA della scrittrice Paola Cadelli, che intreccia fatti realmente accaduti a vicende e personaggi di fantasia. La presentazione con l'autrice è alle 18 alla Biblioteca Civica di Pordenone. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11.10 la rubrica in friulano Voi o Fevelin di, che parlerà della sperimentazione trilingue che prende il via unica in Italia all'Istituto Omnicomprensivo Bachmann di Tarvisio. Alle 11.20 circa andrà in onda a Volo Radente, oggi approfondimento sul tema dedicato ai tumori ginecologici. L'occasione viene offerta da una iniziativa promossa da Università degli Studi di Udine che, in collaborazione con l'azienda sanitaria universitaria del Friuli, poi daremo spazio ad un progetto di edilizia scolastica totalmente green e tecnologico e si scoprirà Rifle essere festival della legalità caratterizzato dai temi forti come l'ambiente, la mafia, i nuovi modelli di sviluppo, il bullismo e i diritti umani. I programmi regionali tornano alle 13.29. Ed era questa la nostra ultima notizia, collaborato in redazione Cristina Polselli, per la parte tecnica Carlo Morello e Maurizio Mona, da Francesca Terranova e Armando Mucchino, grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.